Effetto Mondo. The numbers are going to be very good into the future. We're going to be very strong starting with our transition period, which will be probably June, July. Dacci anche oggi il nostro Trump quotidiano, Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Sì, ciao Alessio, buongiorno. Gli hanno chiesto i giornalisti mentre partiva per il Michigan ieri per andare a fare questa visita alla fabbrica della Ford, notizie sull'economia, perché ieri, come ogni giovedì, era il giorno del numero delle nuove richieste di sussidi, e sono altri 2,4 milioni di richieste di disoccupazione, e Trump ha detto: no, io sono sicuro che saremo di nuovo molto forti, comunque quello che lui chiama il periodo di transizione, che inizierà già in giugno-luglio, quindi fa questa previsione. Poi appunto è partito per il Michigan, questo stato uno degli stati dove storicamente si concentra l'industria dell'auto americana. È andato a visitare questo stabilimento della Ford, e se vuoi sentiamo anche il secondo audio. Oggi ci facciamo un doppio Trump, perché lì invece i giornalisti gli hanno chiesto: ma nemmeno qui, circondato da persone che la indossano, lei sceglie di non indossare la mascherina? E lui ha risposto così. Take us through your thought process of why you decided not to wear a mask. Well, I did wear. I had one on before. I wore one in this back area, but I didn't want to give the press the pleasure of seeing it. Sarebbe a dire no. Insomma, un po' proprio il nostro l'uomo, è molto vanitoso. È interessante, io sarò un po' maniaca delle parole, però la scelta delle parole fatte dal giornalista è fantastica, perché gli dice: la prego, ci spieghi, ci porti attraverso il processo mentale che le ha fatto scegliere di non mettere la mascherina in un luogo dove è obbligatorio. L'ha presa larga il giornalista. Sì. Però le parole di Trump sono state... Sì, ha risposto: no, ma io ce l'avevo qui dietro, però non ho voluto, testuale, dare alla stampa il piacere di vedermi con la mascherina. E vabbè, comunque il tema in realtà è ancora appunto quello economico. C'è anche traccia di un'inchiesta che riguarda il segretario di Stato Mike Pompeo, che avrebbe usato gli uomini della scorta per portare il cane a fare la toilettatura e altre commissioni. Ma la persona che dovrebbe indagare su queste malversazioni, che negli Stati Uniti viene definito l'Inspector General del Dipartimento di Stato, è stato licenziato 3 giorni fa. E i democratici naturalmente protestano, però è chiaro che non può essere questa non è questa la priorità dei lavori del Congresso in questo momento, perché c'è l'emergenza economica e ancora sanitaria. Altri temi sui giornali economici, però. Cioè, sui giornali fa molto effetto, perché vabbè, anche per una ragione di fuso orario, sono riusciti quasi tutti nelle ribattute a mettere le prime foto scattate a Pechino, a questo congresso, il National People's Party, il congresso del Partito Comunista Cinese, che era stato rimandato di 2 mesi, è il più importante evento annuale del Partito Comunista Cinese, cioè l'unico partito che esiste in Cina, raccoglie 3.000 delegati, e lì ci sono controlli molto intransigenti, si fa il test a tutti, anche alla stampa quando si entra, tutti avevano la mascherina, quasi tutti uomini, direi il 99,9% di questi 3.000 delegati, e Xi Jinping l'ha indossata all'inizio, poi se l'è tolta quando ha fatto il suo discorso, e queste foto sempre molto coreografiche, dove il colore dominante naturalmente è il rosso, sono in prima pagina su tutti i giornali americani, perché non stanno arrivando segnali di distensione da queste prime ore di congresso, quindi lo tengono molto monitorato, ecco, possiamo dire così. Giulia, sono tante le notizie, dove ci vuoi condurre adesso? Se vuoi un cenno, perché poi da lì ci porta anche in altri paesi, sì. È il tema di questa, sempre a proposito del congresso, le prime dichiarazioni sono che ci sarà e lo riporta il Wall Street Journal in prima pagina, ci sarà un inasprimento del controllo su Hong Kong. Sapete che il 2019 e anche il 2020 è stato l'anno di nuove proteste a Hong Kong. Pechino non le ha mai digerite, anche se adesso sembra un po' tutto rientrato. anche a causa della pandemia, e questo potrebbe essere, scrive il New York Times, un'altra, una, diciamo, una nuova arma per Trump per additare la Cina per quello che a volte si dimostra di essere, cioè un paese non democratico. E da qui però, se vuoi, ci spostiamo invece nel Regno Unito, un po' perché c'è questo, comunque questo ponte ideale che è il tema della scuola, perché anche negli Stati Uniti si parla molto della ripresa delle università e delle scuole in settembre, e anche nel Regno Unito, adesso che c'è questa notizia che potrebbero essere pronte le prime dosi di vaccino che abbiamo dato anche ieri, a maggior ragione allora forse si potrebbe accelerare il ritorno a scuola. Ma c'è anche un altro U-turn, cioè una giravolta di Boris Johnson, che riguarda i test. Sempre torna questo tema dei test. Il Guardian dice, il primo ministro, in questo protagonista di questo U-turn, perché adesso ha promesso che i test saranno disponibili per tutte le persone che lavorano nella sanità, anche quelle che non sono di nazionalità britannica, perché l'abbiamo detto tante volte, sono moltissimi, soprattutto tra gli infermieri, ma anche tra i medici, ma anche tra il personale, per esempio, che pulisce gli ospedali e ne garantisce l'igienizzazione, che vengono da fuori il Regno Unito. E all'inizio aveva detto no, questi se lo devono pagare, perché il National Health Service è solo per il Regno Unito. Cavallo di battaglia pre-Brexit e pre-elezione e soprattutto pre-Covid. E adesso ha fatto marcia indietro, ha detto no, il test lo facciamo a tutti. Ti porterei, Giulia, in Germania, no? Perché insomma, poi in tutti i paesi, abbiamo già detto, c'è tutto da fare, tutto da ricostruire, tutto da capire. Per esempio, se inietto dei soldi nell'economia in crisi e metto grandi capitali nelle aziende, di fatto sto, un dibattito che c'è in Italia ma c'è anche all'estero, evidentemente anche in Germania, sto in qualche modo nazionalizzando. Per esempio qua si parla degli investimenti nella Lufthansa, no? Che stanno facendo discutere. Il titolo di tutti i quotidiani tedeschi di oggi, la FAZ ha una foto che fa abbastanza impressione, che fotografa dall'alto tutti gli aerei della Lufthansa parcheggiati nei due grandi hub di Lufthansa, cioè Monaco di Baviera e Francoforte. Gli aerei sono a terra, sappiamo, vale per la maggior parte delle compagnie aeree, qualcuno si sta muovendo, EasyJet in Europa, negli Stati Uniti, compagnie che però fanno solo voli interni. Lufthansa perde 1 milione di euro al giorno, e ieri è arrivato questo piano, che praticamente, non so se chiamarlo aiuto di Stato, prestito o ricapitalizzazione, ma di fatto questi soldi li metterà lo Stato, e quindi dopo 20 anni dall'uscita dello Stato dalla Lufthansa, che era in tutto e per tutto un'azienda privata, anche se la vediamo come la compagnia aerea tedesca, lo Stato ridiventerebbe azionista. Si tratta di quasi 10 miliardi di euro, quindi naturalmente ci saranno alcune discussioni. Non è scritto nella pietra, per usare parole che abbiamo sentito nei giorni scorsi, però si tratta di salvarla proprio. Cioè, l'amministratore delegato ieri ha parlato molto chiaro, nelle settimane scorse aveva detto, in un mondo ideale, nel mondo dei puffi che non hanno il Covid, sarebbe bello che la Lufthansa, ha detto puffi? Continuasse a operare. No, lo dico io. Sarebbe stato molto divertente. Poi tra l'altro, sai, in puffo in tedesco si dice Strumpf. Allora suonava un po' peggio. Però insomma, in un mondo ideale, appunto, la Lufthansa, sì, che comunque era una delle compagnie in miglior salute, il trasporto aereo non, insomma, aveva le sue difficoltà anche prima della pandemia, però così rischia il fallimento. E quindi, se la nazionalizzazione se questa partecipazione dello Stato è necessaria, che sia. Poi vedremo se cambierà. Come? Magari anche l'amministratore delegato. Comunque è un tema che fa molta impressione, perché tra l'altro alla Süddeutsche Zeitung Margarete Vestager, commissario alla concorrenza, ha appena rilasciato una intervista dove è tornata sul tema suo per eccellenza, che è quello della distorsione della concorrenza per gli aiuti di Stato. E questo è un temone. E questo, se è non un è un aiuto di Stato, questo, sì. Quindi, Giulia, ancora pochissimi secondi, però un'immagine, una cartolina, Re Felipe in Spagna ai mercati. Sì, ha fatto questa visita ai mercati alimentari generali di Madrid con una super mascherina per simbolicamente anche ringraziare, insomma è pur sempre il re del paese, tutti quei lavoratori e con loro tutta la filiera alimentare che in Spagna, come in Italia, come in tantissimi altri paesi, ha continuato a lavorare a rischio della propria salute per garantire a tutti noi di esatto, durante la pandemia. Grazie Giulia, ci sentiamo la settimana prossima. È tutto per questa puntata. Scusate per la voce. Peter Bescapè in regia, Laura Faggini in assistenza, in diretta Jacopo De Franchi come sempre in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, buon weekend, anche se ci sentiamo tra poco per gli aggiornamenti delle 14:00.